Italia in controluce. Buon pomeriggio da Daniele Biacchesi. Oggi è il 14 di novembre, il programma di Radio 24 che tutti i giorni parla di cronaca, di politica, di costume, di spettacolo. Studenti a scuola di prevenzione con i detenuti del carcere di Milano Bollate, contro la violenza, contro il bullismo e l'abbandono scolastico. Questa storia ci viene raccontata Italia in controluce da Maria Luisa Pezzali. Educare alla legalità con il teatro attraverso attori detenuti che guidano sulla scena i ragazzi. Abbatte i muri di molti pregiudizi il progetto che la cooperativa sociale Este, attiva nel carcere di Milano Bollate, sta portando avanti in due scuole superiori milanesi. Carcere e scuola. In mezzo c'è la devianza, ma le prospettive temporali sono ribaltate. Il dopo in carcere è fatto di rieducazione e reinserimento. Il prima, a scuola, deve puntare sulla prevenzione, sulla consapevolezza di un rischio che si può evitare. Hai potuto morire come uno che volesse qualcosa dimostrare, ma tu dovevi soltanto vivere. Il primo impatto è quello con l'incontro con noi, quindi naturalmente loro curiosissimi, vogliono sapere cosa non hai fatto, perché, per come, quanti anni, quanti mesi piuttosto, no? Poi invece pian piano è il lavoro del teatro, non ti implica di scappare da nulla, specialmente da quelle che sono di solito le scappatoie che usiamo con noi stessi, no? Quindi vie più facili, e quelle vie più facili ci portano a fare delle cose che alle volte, o nella maggior parte delle volte, sono illegali. Enzo, 38 anni, co-conduttore nei laboratori teatrali, ha ancora 6 anni da scontare. Per lui l'incontro con i ragazzi si riassume in una parola: speranza. Sono stato contento di poter portare il mio esempio negativo, perché è un esempio negativo, da una parte, e fargli vedere la differenza di come sto costruendo e di come cerco invece di affrontare la vita in termine più legale, proprio di vita con la società e con quelli che mi circondano, insomma. Ed è proprio stato questo il bello, che ho potuto portare questa mia vicenda, questa mia esperienza, e poterla lasciare nelle mani di qualcun altro che la trasformerà e la userà a modo suo, sperando, che io spero sempre il meglio, diciamo, meglio di me. Io sono 5 anni che lavoro con laboratori, con il teatro, e ancora sto sperimentando e vivendo questo mio percorso, credo che non finirà mai, e devo dire che mi ha aiutato moltissimo, proprio come ragazzi, cioè, ha aiutato me, cioè, nel senso di capire meglio me stesso, dove sono più fragile, dove potrei usare delle mie attitudini personali per aiutare la mia fragilità, e di capire cos'è il sacrificio, cos'è giorno per giorno affrontare il problema e non aggirarlo, soprattutto, ma è anche una questione di passione, diciamo, è nata anche una passione che ormai è dentro di me e non riesco più a rimuovere. Scopo del progetto Live: aiutare i ragazzi, in questo caso gli allievi degli istituti professionali Bertarelli e Marelli Dudovic, a comprendere cosa si rischia davvero perseguendo comportamenti di devianza dalla norma come bullismo, violenza, abbandono scolastico e dispersione dagli studi. Come? Con il confronto diretto con chi un tempo ha infranto e per questo ha pagato le regole della società civile, comprendendo e consolidando una vera cultura della legalità. La norma non è solo la regola imposta, ma la costruzione di equilibri per vivere bene insieme, ci dice Michelina Cappato, presidente e direttore artistico di Estia. La cooperativa sociale opera da 10 anni con progetti di reinserimento socio-professionale nel carcere di Bollate, dove ha fondato anche una compagnia teatrale. Sono dei laboratori di teatro-danza, quindi dove l'elemento corporeo, la musica, la danza sono, come dire, il linguaggio che ci accomuna tutti. Da questo partono delle improvvisazioni strutturate, quindi delle strutture di improvvisazione dove ci sono delle guide che quindi propongono dei lavori e persone che seguono, che possono interagire, intervenire, rompere il lavoro, sviluppare un'alternativa. Quindi si riproduce proprio quella dinamica spontanea, che è quella di cercare di fare le cose insieme, in tutto questo l'elemento musicale coreografico dà una libertà che spesso a quell'età è difficile trovare nella parola. C'è un riconoscimento e un passaggio immediato del senso dell'esperienza che non chiede di essere, come dire, argomentato in un tavolo di discussione, perché chi viene lì è portatore di un'esperienza, e quindi guardarti negli occhi e dirti guarda, io sono là, sono là dentro, vedi un po' tu, no? Se a quest'età vuoi andare, vuoi finire lì o altrove. Questa parte è delegata all'incontro fra persone di esperienze complesse o che rischiano di vivere esperienze complesse. Poi magari si prende un caffè e spesso è accaduto, no? Che qualcuno dice ma sai, io ho queste difficoltà, no? Però proprio perché stiamo parlando di ambiti così delicati delle persone, dove anche il fatto che un ragazzo di 15 anni ti manifesti le sue difficoltà è un regalo, no? A quell'età uno dice no, va tutto bene, tutto a posto, so io come vivere, no? Da parte dei ragazzini c'è più il fatto, come dire, da una parte di doversi giocare un po' come bulli inizialmente e poi dei momenti di apertura immediati, no? Ma mi sa che se continuo così ci finisco anch'io lì. E questo apre la comunicazione. Devo essere nudo, entrare nel mare col corpo che profuma ancora di terra e sciacquare questa terra nel mare. Di allacciare sulla pelle la stretta per la quale da tanto tempo sospirano labbra e labbra, la terra e il mare. Ma cosa significa portare l'arte, il teatro in un carcere e fare prevenzione con l'arte? Lo abbiamo chiesto a Katia Bianchi, la responsabile dei progetti culturali nel carcere di Bollate. Fare progetti culturali in carcere ha un'importanza fondamentale, perché a volte le persone che arrivano in questo tipo di istituzione non hanno nemmeno mai avuto la possibilità di avvicinarsi alla cultura e quindi anche ad una possibilità di esprimersi, di trovare senso, di trovare anche uno spunto di riflessione attraverso tutto quello che noi chiamiamo cultura, che spazia dal teatro alla musica, al cinema, alla biblioteca, quindi tutto l'assetto della lettura, che è una cosa che spesso si riscopre in situazioni proprio di ristrettezza, quando si ha anche molto tempo a disposizione, si cerca anche di riempire questo tempo in maniera un pochino più costruttiva. L'idea della prevenzione deve anche un po' cambiare. Sicuramente deve rafforzarsi come intervento, soprattutto sulle scuole, e deve trovare sempre più dei movimenti molto interessanti che debbano in qualche modo poi toccare i ragazzi nella loro quotidianità e attraverso delle cose che loro amano fare. Quindi non basta dire che non è bello rubare e non è legale e gli farà fare una vita difficile. Ma si può anche arrivare a questo tipo di discorso, questo stesso tipo di messaggio, anche attraverso dei laboratori che riguardano molto più gli aspetti creativi e quindi raggiungerli in modi assolutamente più interessanti ed appetibili. Il cambiamento è un traguardo difficile da raggiungere e l'arte può fare la differenza, ci racconta ancora Katia. Ho seguito in particolare una persona con una storia di vita molto difficile, con un reato commesso molto, molto brutto e molto pesante. Una persona di una grandissima povertà, che ha avuto veramente pochissime possibilità di esprimersi e quindi di trovare un posto all'interno proprio di sé più che all'interno del mondo. Ha partecipato a questo laboratorio musicale e l'ho ritrovato 2 mesi, 3 mesi dopo ad un concerto in cui lui suonava la batteria. Questo mi ha veramente molto colpito, perché è quasi come se in questo caso la musica fosse riuscita a tirare fuori delle risorse che io forse nemmeno avevo in qualche modo notato, e mi ha veramente anche molto spronato poi ad appoggiare certi tipi di iniziative e di attività, perché a volte l'istituzione non può arrivare fino in fondo ed è necessario che si attivino dei progetti come possono essere appunto i laboratori musicali, ma anche il progetto legato al teatro, e che ci siano questi progetti che aiutano, che collaborano con l'istituzione per tirar fuori, cioè per vedere dove ci sono le risorse per tirarli fuori, perché non esiste un altro modo per produrre un cambiamento delle persone. Era il reportage di Maria Luisa Pezzali sul carcere di Milano Bollate, la seconda edizione in Italia in Controluce. Vi ricordo, siamo su Facebook, sulla pagina, il gruppo, siamo su Twitter e rintracciabili via mail controluceradio24.it. Torniamo domani alle 6.30 su Radio 24 con questo viaggio sui pretacci, sui preti di frontiera.